Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, con voi di nuovo Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, un tema su tutti, il voto a Pomigliano d'Arco. Ora è inutile girarci attorno, è inutile far finta che il bicchiere sia mezzo pieno. Il numero di no alla proposta Fiat è stato superiore a ogni previsione, superiore alle previsioni anche della CGIL, che lo ammetta o no, superiore alle previsioni della stessa Fiat, e la Fiat lo ha annunciato. Si cerca di capire adesso che cosa potrebbe essere la soluzione. La cosa ancora, a mio avviso, più sorprendente, e che la dice lunga anche sulla capacità che abbiamo anche noi giornalisti di leggere il paese, o l'incapacità, è che da quello che si è capito, e ne parleremo con chi sta seguendo la vicenda a Pomigliano d'Arco, i no arrivati al piano proposto dalla Fiat sono arrivati soprattutto, o in quota significativa, dai giovani e dalle donne, oltre che giovani. Quindi non è stata la componente, così che uno poteva immaginare, più storica della FIOM, chi ha più di 50 anni, chi anche poteva vedere meno vantaggi in una modifica che obiettivamente obbliga di lavorare di più ai dipendenti Fiat e Pomigliano. Non è stata quella parte lì, quella che magari si vede vicino alla pensione, che ha una mentalità diversa, che ha tutta la memoria storica appunto delle lotte sindacali, metalmeccaniche di quel periodo. Insomma, non sono stati, per dire in maniera forte, i vetero comunisti o la vecchia, i vetero metalmeccanici, sono stati i giovani e le donne, anche giovani. Questo meriterebbe una riflessione complessiva anche sulla su come è stato percepito la proposta dell'accordo e anche su come raggiungono le nuove generazioni, perché da tempo diciamo attenzione che l'introduzione di grandi meccanismi di flessibilità nel mercato del lavoro, invece che aver generato una generazione, scusate gioco di parole, che si mette in gioco con la flessibilità, sta creando come fenomeno non voluto, indiretto e forse anche inatteso una grande richiesta del posto fisso. E su questo forse bisognerà fare delle riflessioni a caldo, e invito tutti, non ideologiche, cioè al di là del fatto che se hanno ragione i sindacati ha ragione la Fiat. Comunque, a sorpresa un voto fortissimo di no, e tra l'altro il dato è ancora più importante, perché i no hanno avuto il 36%, i sì il 62%, però attenzione che dentro questi sì ci sono anche i quadri, gli impiegati, i cosiddetti colletti bianchi. Se si andasse a vedere la percentuale di soli operai, probabilmente si arriverebbe vicini o oltre al 50%, per cui attenzione. E ricordo, in una vicenda in cui la CGIL stessa, creando non pochi attriti con la sua costola, la FIOM, aveva di fatto invitato a votare per il sì, dicendo insomma, vinceranno il sì forse è la scelta migliore. C'erano state molte posizioni su questo, molti attriti tra FIOM e CGIL. Ciò nonostante, il dato è abbastanza inequivocabile. I no sono stati di gran lunga superiori a ogni attesa, anche guardando quello che è la forza della rappresentanza della FIOM in fabbrica, e tra l'altro da quello che si capisce molti di questi no non sono arrivati da aderenti della FIOM o aderenti quindi la CGIL, ecco perché anche la sorpresa della stessa organizzazione sindacale. 349-238-6666 per i vostri sms. Non è questione di essere, che i giovani siano peggio dei genitori, è questione di capire, ripeto senza slogan, che cosa sta capitando al mondo giovanile del lavoro. Questo ne è un esempio. Poi uno può dire che è Pomigliano e non è Treviso, che è la Fiat, non è una piccola impresa, siamo d'accordo, ma insomma il dato c'è, la notizia c'è tutta. Poi parleremo di borse, perché dopo un dato americano sull'occupazione che ha, e soprattutto sulle nuove case, meno 33% a maggio le vendite di nuove case in America, meno 6% le domande di mutui, in netto calo contro ogni previsione, le borse hanno perso un ulteriore mezzo punto percentuale rispetto a quello che già non perdevano prima. Milano perde l'1,5, Parigi meno 1,8, Francoforte meno 1, Londra meno 1,20, l'America meno 0,33%. L'euro si è leggermente indebolito, è sceso sotto quota 1,23, adesso viaggia 1,221, quindi vicino a quota 1,21. E ancora, tra i titoli segnalo che vanno particolarmente male Pirelli, meno 4,20, Unipol meno 3%, Parmalat meno 2,70, Prismian meno 2,5, come Mediolanum e Bulgari e anche Tenaris. Il 2,3% lo perde A2A e anche CIR, il 2,20 Mediobanca e Fondiaria e Fiat, Generali meno 2 come la Popolare di Milano. Azimut ed Eni perdono l'1,90%. Non c'è un titolo positivo in questo momento se non Ansaldo STS che è invariata e Snam Retagas che è invariata anch'essa. Migliori e peggiori. Allora, Gruppo Minerali Maffei più 8%, Camfin più 2,84%, poco altro, Isagro più 5,7%, il peggiore in assoluto invece è TAS, meno 8,2%, Stefanel meno 5%, Pirelli lo abbiamo detto, meno 3,90%. Ultima cifra e poi le notizie in breve, 349-238-6666 per i vostri sms. Nel corso della puntata parleremo anche dei dati del bilancio dell'industria farmaceutica italiana, che vuol dire 67.000 addetti, di cui quasi 7.000 addetti alla ricerca scientifica. Oggi l'assemblea annuale, la richiesta al governo di modificare alcune cose contenute in finanziaria, richiesta accolta, ne parliamo nella seconda ora, le altre notizie. Allora, vediamo che cosa è successo nel resto del paese e volete già sapere di Fiat, adesso ne parliamo, c'è una discreta difficoltà anche della Fiat di capire cosa fare adesso, perché non puoi certo proporre un contratto che uno su tre, tutti inclusi, ti hanno bocciato, è a maggior ragione se poi sappiamo che la media è di uno su due tra gli operai, questo è chiaro. La camorra nei no, non so, sì. Camorra no, vabbè, può essere, adesso ci colleghiamo con Pomignano d'Arco, chi scrive che il sì alla fine ha prevalso, con massimo rispetto non ha capito nulla della notizia di oggi, lo dico con massimo rispetto, ci si attendeva una percentuale di gran lunga superiore, cioè per far partire questo accordo occorreva che la stragrande maggioranza fosse a favore e che la componente FIOM fosse praticamente ridotta a una percentuale non così rilevante, non il 33% dei votanti. Vabbè, andiamo avanti. Oggi sul fronte internazionale il petrolio è aperto in calo, meno 0,7, 77,3 dollari al barile, e poi una notizia che farà discutere, che riguarda il disastro ambientale del secolo, se avanti così, è quello della British Petroleum nel Golfo del Messico. È un caso, però la settimana prima del disastro Goldman Sachs, famosissima banca d'affari americana, quella insomma che ha distribuito già 1,6 miliardi di bonus, quella che ha fatto discutere perché prima è stata salvata e poi ha distribuito bonus ai suoi manager, dicevo, una settimana prima del disastro Goldman Sachs ha venduto tutti i titoli British Petroleum che possedeva, praticamente il 44% di tutti i suoi investimenti erano in British Petroleum, incassando un guadagno di 266 milioni di dollari. Allora qui si sprecheranno, immagino, congetture, ipotesi, dietrologia e quant'altro. Non abbiamo nessun motivo per pensare che Goldman Sachs sapesse una settimana prima che sarebbe esploso il pozzo nel Golfo del Messico. Certo, il tempismo è miracoloso, una settimana prima. Tra l'altro ci sono dichiarazioni di un operaio della compagnia petrolifera, della British Petroleum, che ha detto, lui era uno degli addetti alla piattaforma esplosa, ha spiegato che l'impianto era già danneggiato da parecchio tempo prima del disastro e che British Petroleum aveva deciso di non effettuare riparazioni per non bloccare la produzione. Ripeto, insomma, è tutto da dimostrare che ci fossero tanti elementi per disinvestire. Certo, la coincidenza resta tutta, il 44% degli investimenti di Goldman Sachs erano dentro il titolo British Petroleum e sono stati tutti venduti una settimana prima del disastro con un guadagno di 270 milioni di dollari. Auguri per gli scrittori di thrillers e spy stories. Ancora, per quello che riguarda il mercato europeo, il BaFin, il maggior gruppo al mondo nel settore della chimica, ha acquistato la tedesca Cognis Holding per 3 miliardi e 100 milioni di euro. La Cognis produce ingredienti per l'industria chimica e alimentare. Ed è la prima grande acquisizione per il colosso della chimica dopo quella dell'anno scorso di Ciba Holding, pagata al tempo 3 miliardi e mezzo di franchi svizzeri. Abbiamo detto delle mutui tedeschi e del crollo nelle domande di nuove case, dei mutui americani, scusate, del crollo nella domanda di nuove case negli Stati Uniti. Ci sono nuove tensioni anche sulla Grecia, tornano a salire tutti i rischi di un fallimento della Grecia e il premio che viene pagato, che lo Stato greco deve pagare per trovare investitori sul suo debito, per trovare qualcuno che sottoscriva le sue obbligazioni. Si sono riavvicinati al livello record di 940 punti credit default swaps, le polizze per assicurare chi si compra il debito greco. Siamo vicinissimi al livello del peggiore durante la crisi di maggio. Il presidente dell'Unione Europea Van Rompuy e il presidente della Commissione Europea Barroso hanno chiesto ai leader del G20 di esplorare e sviluppare ulteriormente a Toronto la possibilità di introdurre una tassa globale sulle transazioni finanziarie, quella su cui è molto contrario il nostro presidente del Consiglio Berlusconi. E poi la Commissione Europea starebbe per proporre una tassa sui titoli di Stato per punire i paesi che hanno un debito eccessivo. Ancora Soros, grandissimo speculatore finanziere, George Soros, quello che ne sa qualcosa di speculazione su lira, sterlina ed euro, ha detto: la politica fiscale della Germania è pericolosa per l'Europa e potrebbe distruggere il progetto europeo. Berlino sta portando, con questa sua politica di rigore, di tasse sulle banche e quant'altro, i paesi europei alla deflazione, cioè alla recessione economica con prezzi in calo. E poi una frase che insomma ci lascia perplessi, detta da Soros. Perché Soros ha continuato, io ricordo che Soros è l'uomo che decide di buttare fuori la lira dallo SME, la sterlina dallo SME, quello che in un accordo famoso di febbraio, in una cena riservata, assieme a altri tre grandissimi gestori di fondi, decisero che bisognava attaccare l'euro. Cosa ha detto oggi Soros in un'intervista al giornale tedesco Die Zeit? Ha detto: non si può escludere un collasso dell'euro. Eh sì, non se ne abbia George Soros, che probabilmente se ne frega del nostro gufo, però insomma non si può escludere un collasso dell'euro. Ci spiegasse perché, ci spiegasse come ha investito, ci spiegasse se sta scommettendo che l'euro andrà a 0,80, che l'euro non ci sarà più. Detta così è solo panico sul mercato. Sì, in effetti poi alcuni di voi scrivono: mamma mia, quanto è sensibile George Soros, che è così preoccupato per noi europei. No, sarebbe interessante sapere che posizioni ha Soros sull'euro, sul dollaro, se è corto, se è lungo, se si scommette in un crollo, se scommette in una crescita, giusto per sapere, visto che dice che non si può escludere un collasso. Vabbè, il ministro Tremonti in Italia, la ricreazione è finita, ne parliamo dopo, le dichiarazioni di ieri, la manovra, Chiamparino atto stile, ne parliamo dopo, parliamo di tutto dopo, perché voglio andare rapidamente a Pomigliano, la proposta dell'accordo, ricorderete gli 8 turni, il posticipo della pausa pranzo, il tutto in un progetto in cui Fiat va a investire comunque 700 milioni di euro lì, vuole trasferire la produzione di Panda dalla Polonia a Pomigliano. Io ricordo che in Polonia, adesso ricorderemo anche qualche proporzione sul numero di auto prodotte, cioè a Pomigliano con gli stessi dipendenti che ci sono in Polonia praticamente producono 30-40 mila auto, non solo per colpa loro, i modelli sono anche di lusso e vendono poco dell'Alfa, però in Polonia con gli stessi dipendenti, si producono circa 600.000 auto, non 40.000. E allora adesso parliamo di Fiat, del voto sorpresa a Pomigliano, un referendum di tutti i dipendenti. ...5.200 addetti che producono l'Alfa 147, la GT, la 159, la Fiat Bravo, no? E per un totale di 30-40.000 autovetture. Sono solo 1.000 in più i dipendenti in Polonia, che producono però 600.000 auto. Praticamente in Polonia i dipendenti producono l'equivalente di quasi tutte le auto prodotte in Italia dalla Fiat, con 22.000 dipendenti, sono 650.000. Già nel 2008 fu chiuso per cassa integrazione per 3 mesi per ristrutturarlo. La Pomigliano era uno stabilimento Fiat fuori controllo, la camorra, di tutto dentro, abbiamo raccontato anche quelle cose. Chiusura per 3 mesi, 120 milioni di euro spesi per riammodernarlo, nuovi corsi di formazione e lo stabilimento ribattezzato Giambattista Vico. La produzione come qualità adesso è in linea con gli standard del gruppo. La Fiat dice: se dobbiamo portare però tutte le Panda che produciamo in Polonia, che sono circa 220.000, occorre che cambino i turni, cambi l'organizzazione del lavoro. In uno stabilimento che al massimo lavora al 60% della sua capacità. Poi le polemiche sui 1.500 permessi elettorali che vengono chiesti ogni volta che c'è una consultazione politica o amministrativa, tutti scrutatori, diciamo. E allora, 280.000 le vetture che vorrebbe trasferire lì la Fiat, con un investimento di 700 milioni di euro. Le richieste contestate hanno riguardo soprattutto i 18 turni settimanali spalmati su 6 giorni a settimana, 3 turni da 8 ore al giorno, gli straordinari resi più flessibili, la riduzione delle pause dalle attuali 2 da 20 minuti a 3 da 10 minuti, lo spostamento della pausa pranzo a fine turno, la limitazione del non dell'assenza per malattia, ma del rimborso, cioè siccome c'erano delle malattie, per esempio durante lo sciopero, che capitavano tutte quante assieme, la Fiat ha detto: se si supera una certa soglia non è più garantito il rimborso del primo giorno, e poi la limitazione agli scioperi. Ultima nota per la Fiat: produrre la Panda a Pomigliano ha un costo comunque di 500-600 euro in più a vettura, che spero non scaricherà o non voglia scaricare su di noi. Che è successo oggi? Su 4.642 voti, quindi altissima l'affluenza, i sì hanno avuto il 62%, i no il 36%, pochissime le schede nulle, le schede bianche. E se si va a vedere la catena di montaggio, cioè gli operai veri e propri, no arriva oltre il 40%. Mariano Maugeri, inviato del Sole 24 Ore, Pomigliano d'Arco, buonasera. Buonasera a te. Beh, neanche tu, che in questi giorni hai scritto e commentato anche per la radio di Pomigliano, ti aspettavi una percentuale così alta? No, la soglia, come dire, limite era il 70%, e come hai detto tu un attimo fa, si è scesi sotto e sono 8 punti percentuali che un po' sballano i piani della Fiat, e oggi cercavamo di ragionare insieme agli operai, oggi è il giorno dopo e quindi si può riflettere un po' più a freddo, insomma, su quello che è accaduto nei giorni passati. C'è stata una marcia, come abbiamo raccontato appunto sì, qualche giorno fa, a favore del sì, insomma sono stati giorni molto concitati e stressanti, se vuoi, sotto molti punti di vista. No, il dato che emerge è che la somma dei no non coincide con gli iscritti allo Zlacobas e alla FIOM, cioè i sindacati che si sono opposti all'accordo. Questa è la notizia più importante, perché nessuno lo immaginava. Cioè, tutti, lo dico perché scrive, ci immaginavamo al massimo che gli iscritti alla FIOM avrebbero votato no come aveva chiesto la FIOM. A me se non concesso che tutti la pensassero esattamente come la FIOM. Qui quanto balla di numeri? Beh, c'è un 12-15% in però. Più. E abbiamo capito, parlando con gli operai, che è stato sia il sì che il no, sono stati appunto dei voti tormentati, cioè qualcuno uscendo diceva ho votato sì, ma adesso mi sputerei in faccia. Quindi non è che ci fosse questa convinzione assoluta, anche se poi c'era un nocciolo duro di chi invece ha votato sì senza alcun dubbio. E tra i no ci sono anche molti operai non iscritti al sindacato, cioè senza tessera, e molti giovani, perché in qualche modo si paventa e si è già paventato negli anni passati un conflitto generazionale tra la generazione dei figli degli operai Alfa assunti nell'89. Nell'89 l'Alfa fece un'infornata di 2000 operai, tutti con famiglia, figli, spesso mogli casalinghe, per cui sarebbero disposti a tutto pur di lavorare di più e guadagnare di più, perché è utile ricordarlo, questo accordo prevede 120 ore di straordinario in più che tradotti in quattrini valgono 2400 euro netti l'anno. E i giovani, un po' i bamboccioni se mi permetti, dai 20 ai 29 anni, assunti dal metà del 2000 in poi, intorno al 2004-2005, che invece non hanno nessuna intenzione di sposarsi, cioè hanno capito già come gira il mondo, vivono con mamma e papà e non rinuncerebbero per nessun motivo al mondo alla movida, a questo fine settimana. E che come sai invece la richiesta della Fiat era proprio quella adesso, di lavorare la notte del sabato e della domenica. Mariano, io non voglio adesso entrare in sociologismi tra virgolette un po' troppo così a caldo, mettiamola così, perché io non so se abbiano i giovani votato no per la movida del sabato o perché ritengono che rispetto a quella proposta ci sia di meglio da fare nel mercato del lavoro nero in Campania o andare al nodo o fare altro. Io questo non lo so e non lo possiamo dire. Quello che è sicuro, e tu fai bene a sottolinearlo, è primo dato di fatto come notizia giornalistica che i no sono stati superiori agli iscritti della FIOM, e qui mettetevela via tutti, perché al massimo ci si immaginava che la FIOM potesse beccare il 100% di adesioni, e già sarebbe stato un successo visto che la CGIL aveva detto di votare sì. Di fatto c'è stato un 12-15% di voti in più, cioè la FIOM con i suoi numeri poteva arrivare forse a un 20-22%, e invece qua i no sono stati il 36%. E poi tu hai scoperto, e poi ne parleremo, che a votare no l'accordo non sono stati gli storici metalmeccanici del Tutto Blu che giravano con gli innocenti negli anni 70, oppure appunto i figli di quelli degli anni 80, ma sono stati i giovani che sono entrati in fabbrica nel 2005, cioè quelli che uno poteva immaginare più abbeverati di flessibilità, in qualche modo, no? Tutti pregni di questo nuovo mondo del lavoro che andiamo ripetendo da anni, sono quelli che hanno votato no a una modifica più flessibile del contratto del lavoro, non i loro padri sindacalizzati, comunisti, cattivi, con la barba lunga. Sentiamo alcune voci che abbiamo raccolto fuori da Pomigliano d'Arco e poi vorrei sentirti di nuovo su questo punto. Ci sarà questa fattura, però purtroppo parecchie persone hanno capito il sacrificio giustamente che la Fiat sta facendo, perché spostare la produzione dalla Polonia e portarla qua dove i costi là sono più bassi già è un enorme sacrificio che diciamo il nostro management ha fatto. Ho votato sì, mi stava bene questo accordo, perché di fronte all'accordo che ha fatto il signor Marchion piano C va bene questo qua che stava in considerazione. Adesso aspettiamo l'esito della Fiat che prenda una decisione, non lo so. Però sono convinto che qualcosa si muoverà, spero in positivo. Ho votato sì, l'ho dichiarato anche ieri, ovviamente. Purtroppo qualcuno non si rende conto che si assume la responsabilità in questo modo, forse di mettere a rischio non soltanto 5.000 posti di lavoro, ma il futuro occupazionale in questo paese, perché questo doveva essere un voto di svolta. Speriamo che con questo sì questa benedetta macchina arrivi a Pomigliano. Si chiuderà la fabbrica con questa votazione, perché è un esito negativo. La Fiat si aspettava qualcosa in più come votazione, come percentuale, ma la gente evidentemente non ha capito, questi giovani di oggi hanno intenzione di far chiudere questa fabbrica. Insomma, il titolo Mariano Manogeri è tutto nella dichiarazione ultima che abbiamo sentito di questo dipendente di Pomigliano che aveva una certa età. I giovani ci vogliono far chiudere la fabbrica. Ora tutto io avrei previsto, e chiaramente non capisco nulla, tranne di vedere un conflitto generazionale al contrario, e cioè i padri sindacalizzati da 20 anni, 30 anni di manifestazioni e scioperi che votano sì all'ampliamento del turno di notte, 18 turni, al sabato che viene meno, a tutto un insieme di cose, e i giovani, flessibili, globalizzazione, quant'altro, che votano no. Mariano. Sì, gli anziani o comunque quelli assunti in 89 però hanno anche una forte cultura operaia, perché non sono tutti sindacalizzati, cioè c'è una quota del 30% degli operai sul totale non ha tessera sindacale, ma hanno vissuto in famiglia in cui il papà era operaio Alfa, e devo dire che la Fiat è stata molto brava poi a reclutare i figli di questi operai, perché è gente innanzitutto sana, indenne da contaminazioni con la camorra o con la malavita, e come sai questo è un territorio dove solo Napoli vanta 100 grandi della camorra, cioè è un territorio fortemente inquinato dalla criminalità organizzata. Gente che crede al lavoro che fa. Oggi ho intervistato uno che mi ha detto: io in 21 anni di lavoro alla Fiat ho presentato solo 3 certificati di malattia per un totale di 9 giorni, cioè mi sono assentato in 21 anni solo 9 giorni dalla fabbrica, ho un figlio a carico, la moglie casalinga, vivo a Napoli, pago 600 euro di TARSU, di tassa sull'immondizia l'anno, cioè equivalente a un mese di cassa integrazione, e non so come fare a dare a mio figlio 15 euro per andarsi a comprare un paio di pantaloni. Ecco, sono storie obiettivamente, non vorrei andare sul pietismo, no, ma, certo. Ma che toccano, perché poi sono tutti consapevoli che fuori da questa fabbrica alternative non ce ne sono, cioè l'alternativa può essere solo l'immigrazione, e si può immigrare a 20, a 30 anni, a 40, a 50. Sì, però voglio dire, noi abbiamo spiegato in questi giorni, lo dico anche a chi scrive delle sciocchezze emerite, abbiamo spiegato in questi giorni, non dico i vantaggi perché noi non prendiamo parte, ma insomma quello che era lo scambio, cioè una fabbrica che non funziona, e a nostro avviso obiettivamente poteva essere meglio lavorare di più con turni sicuramente meno comodi, meno vantaggiosi, ma mantenere l'occupazione con anche un aumento del salario, perché comunque gli straordinari aumentando, come tu ricordavi, portavano circa 2.400 euro netti in più all'anno, fermo restando che è bruttissimo lavorare di notte, che non piace a nessuno perdere il sabato, e ci mancherebbe. Però insomma la Fiat questo chiedeva in cambio, e ritenevamo, e abbiamo sempre spiegato i vari motivi, ci siamo anche beccati degli schiavi dei padroni, servi dei padroni, da alcuni di voi, che magari sono i fratelli di quelli che adesso scrivono state difendendo i comunisti, ma non è questo il problema è la notizia. Allora io penso che la Fiat non difende i comunisti, su questo siamo d'accordo, bene, la Fiat ha scritto un comunicato dicendo l'azienda non si aspettava tanti no. La percentuale di voti contrari è superiore alla soglia minima auspicata per gestire l'intesa. Il no così elevato potrebbe spingere la Fiat a considerare altre ipotesi. Lo scrive la Fiat. B. Altro comunicato. È impossibile andare avanti con chi è pretestuoso. La Fiat ha preso atto dell'impossibilità di trovare condivisione da parte di chi sta ostacolando con argomentazioni dal nostro punto di vista pretestuose il piano per il rilancio di Pomigliano, nota Fiat. E poi ha aggiunto l'azienda lavorerà con le parti sindacali che si sono assunte la responsabilità. E intanto dopo il voto Sergio Marchionne è volato negli Stati Uniti, e adesso iniziano a circolare agenzie che dicono beh forse la Fiat potrebbe lanciare una newco, una nuova società, non si capisce più niente. Meteo, pubblicità. E poi vorrei sapere, Mariano, cosa potrebbe fare la Fiat adesso di Pomigliano per non buttare a mare il 63% di sì, ma prendo atto che quasi, anzi che 4 metalmeccanici su 10 hanno detto di no. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Moltissimi messaggi che arrivano, alcuni che dicono attenzione, provate voi a lavorare con questi turni, la Fiat non chiedeva solo gli straordinari, c'era anche la malattia e il diritto di sciopero, la pausa pranzo spostata alla fine dell'orario di lavoro, la riduzione delle pause da 20 minuti a 2 da 10, comunque adesso le rileggo perché non è che a memoria mi ricordo tutto l'accordo, così stiamo tranquilli su tutto. Ecco, delle attuali 2 da 20 minuti a 3 da 10 minuti. Altri dicono beh insomma nella mia fabbrica questo già si fa, al nord il voto sarebbe andato diversamente, noi già lavoriamo sui turni. Il punto a mio avviso ripeto, fino a, rischiando di essere anche noioso, è la spaccatura generazionale. Cioè il fatto che non hanno votato no quelli che si immaginavano, hanno votato no i giovani. Su questo, al di là di tanta retorica, prima o poi, cerchiamo di farlo con Domenico De Masi alle 18.15, in quanto sociologo e in quanto campano, bisognerà fare anche un ragionamento a mente fredda, senza ideologie. Evidentemente qui c'è una Mariano Margeri, c'è una incapacità o non volontà, o anche il senso che forse tanto perso quel lavoro se ne trova un altro. Mariano? No, perso questo lavoro non se ne trova un altro, come dicevamo prima non ci sono alternative. E certo c'è la Fiat che ha cercato nel 2008, tu citavi poco fa questo programma di formazione, sì. Marchionne ha investito 100 milioni, ha chiuso la fabbrica per due mesi, l'ha rinnovata e ha fatto dei corsi intensivi di formazione, per esempio con Velasco, l'ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo, oppure con Silvio Soldini, per appunto coinvolgere i giovani, perché non c'è semplicemente poi la parte, la versione sindacale, c'è anche quella del coinvolgimento. Gli operai, per produrre delle macchine di qualità, devono credere a quello che fanno. Certo. E secondo me la grandissima maggioranza degli operai di Pomigliano è in grado di produrre delle automobili di grande qualità. Non è vero che sono degli sfaticati. C'è un'area invece, diciamo, più problematica, come accade in tutte, come succede in tutte le fabbriche del mondo, che la Fiat in tutti i modi sta cercando di riassorbire, sta cercando di governare. Poi che lo faccia in modo ruvido, perché così è lo stile piemontese della Fiat, fa parte del gioco. Marchionne però non è un piemontese, non è un neovallettiano, no. È un abruzzese, è un uomo del sud, e credo che ci tenga a tenere in piedi questa fabbrica, anche perché anche lì qual è l'alternativa? Cioè creerebbe la chiusura di Pomigliano dei problemi sociali enormi che nessuno è in grado di permettersi, tantomeno la FIOM. Quindi una delle ipotesi sul tappeto è che la FIOM mediti, perché adesso si trova con il cerino in mano, si trova con un risultato che va molto al di là delle sue attese, più rosee aspettative. E secondo me non sarà facile la gestione appunto di sì, questo infatti, risultato. Infatti, paradossalmente la FIOM avrebbe potuto preferire un dato molto più basso di no. Come dire, noi abbiamo fatto la FIOM, abbiamo difeso i diritti dei lavoratori, però l'accordo è passato perché non siamo maggioranza. Adesso si ritrova ad essere quasi maggioranza, con molti no che non appartengono ai tesserati FIOM, e a dover avere addosso tutta la responsabilità di quello che capiterà a Pomigliano. Sentiamo il ministro Maurizio Sacconi su questo, che intervistando la nostra Chiara Grandi si è detto: beh, attenzione, io immagino, non posso nemmeno ipotizzare che la Fiat comunque non rispetti il suo piano e che cambi idea. Non voglio nemmeno ipotizzare che Fiat cambi idea. Ho fiducia nella nota determinazione di un manager come Marchionne, perché saprà certamente rispettare il patto che ha siglato con le organizzazioni che hanno avuto il coraggio di decidere. E ora che il referendum è stato inequivocabilmente approvato, che l'accordo dal referendum è stato inequivocabilmente approvato, è evidente che, cioè io penso che sia logica conseguenza che l'investimento. Sentiamo su questo anche il segretario generale nazionale della FIOM, Landini, che dice già, vabbè, adesso per avere una riapertura occorre per avere il consenso nostro occorre riaprire il tavolo, e quindi dice andiamo a riaprire il tavolo, leggetelo bene tra le righe questo Landini, sentiamo. La FIOM chiede che la Fiat prenda atto del pronunciamento che c'è stato tra i lavoratori, del resto da lei voluto, e che riapra il negoziato, tolga dal tavolo gli elementi che sono indisponibili, dalla messa in discussione del diritto di sciopero, alle sanzioni, agli interventi fuori luogo sulla malattia, e riapra la trattativa sui problemi veri di produttività dello stabilimento di Pomigliano. Noi siamo disponibili da subito ad affrontare questi temi, può applicare la Fiat il contratto nazionale di lavoro e così può fare i 18 turni, lo straordinario, così come previsto dal contratto e dalle leggi. Il pronunciamento dei lavoratori mi pare sia stato chiaro e credo che la Fiat dovrebbe riflettere, perché il consenso è decisivo per far funzionare le fabbriche ed è utile ricercarlo con tutti. Da questo punto di vista noi vogliamo che sia fatto l'investimento, vogliamo che le persone lavorino, vogliamo che le persone però abbiano dei diritti e siano persone anche nei luoghi di lavoro, e per questa ragione noi diciamo che la cosa più saggia in questo momento per tutti sarebbe quella di riaprire un negoziato e trovare delle soluzioni condivise da parte di tutti. Allora, prima del traffico, anche Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, ha commentato a caldo il voto. Noi non possiamo che supportare e apprezzare la posizione che Fiat ha espresso. Ancora una volta ribadiamo il fatto che c'è un sindacato e c'è anche una parte dei lavoratori che non comprende qual è la sfida che noi abbiamo davanti. Vabbè, un minuto di traffico, poi Mariano ci salutiamo con il futuro dello stabilimento di Pomigliano d'Arco e poi la borsa che ha chiuso negativa oggi dell'1,20%, non sui minimi. A chi scrive al 349-238-6666, ma perché tanta importanza per 5.800 dipendenti della Fiat Pomigliano? Non ha capito nulla di quanto questo voto influirà anche le relazioni industriali, sindacali e politiche delle prossime settimane. Ci sentiamo dopo la viabilità. Allora, Mariano Maugeri, dobbiamo stringere che ci sono i mercati, c'è anche il dato di Farmindustria, altre cose, il dato di Istat sul mercato del lavoro. Che cosa capiterà adesso secondo te? Adesso mi pare che il comunicato della Fiat sia chiaro, non è una chiusura totale, si ricomincerà a discutere. Io credo che ci sia un attore che in queste settimane non sia uscito allo scoperto, che è la politica, il governo, le afasie del PD, i silenzi appunto dell'esecutivo. Queste sono partite troppo complesse. Il mercato del lavoro si sta, come dire, sta cambiando alla velocità della luce. Io sono stato in Tunisia, dove si sta trasferendo buona parte della manifattura anche meccanica del nord-est, dove un operaio costa 125 euro al mese e le aziende per 10 anni, le aziende offshore, non pagano né tasse né IVA, la benzina costa la metà che in Italia e l'energia elettrica idem. Bisogna stare molto attenti, fare delle scelte responsabili, però, come dire, con tutti i protagonisti. La politica, che voglio dire, li votiamo proprio per regolare questo genere di conflitti, mi pare che debba rientrare in questa partita e quindi trovare attraverso una mediazione intelligente un punto di equilibrio che accontenti tutti. Sì, diciamo che c'è stato il silenzio del PD e l'assenza di un ministero allo sviluppo economico, cioè qualcuno ci facesse sapere se poi è ancora necessario in questo paese un ministro allo sviluppo economico che deve, che si chiami attività produttive, industria, me ne frega nulla, deve essere, diciamo, in qualche modo, non dico l'arbitro, ma insomma aiutare l'incontro tra le parti sociali. In questi casi manca ancora il ministro, non abbiamo capito chi lo farà. Vabbè, va bene, niente, però in effetti la politica ha lasciato che la cosa se la sbrigassero i sindacati e la Fiat. Ci chiedono insistentemente, però ti prego un secondo di risposta, la camorra ha pesato secondo te in questo voto o no? Assolutamente no, questa fabbrica è un presidio di legalità. E comunque, se proprio dobbiamo fare i dietrologi, alla camorra fa comodo che questa fabbrica rimanga in piedi, perché gli stipendi, con gli stipendi poi ognuno può fare quello che vuole, come dire, è circuito di denaro nell'economia, ma questa è proprio, come dire, è quasi un paradosso. Grazie a Mariano Maugeri in collegamento con noi da Pomigliano d'Arco, e adesso iniziamo il commento di borsa, poi lo proseguiremo anche dopo il GR. Meno 1,21%, pesa il crollo nella vendita di nuove case in America, meno 33%, e male anche i mutui in America, meno 6,6%. Il mercato si è raffreddato, sono ripartiti anche tutti gli spread e i valori dei credit default swaps, ossia delle polizze per assicurarsi nel caso si sia comprato debito greco. Meno 1,70 Parigi, che quindi fa peggio di Milano, meno 1% Francoforte, meno 1,30 Londra, l'America perde lo 0,40%, l'euro è sceso a quota 1,22 e il commento di Radio Core Sole 24 Ore di Livia Zancaner. Buonasera Livia. Buonasera. Ci accompagnerai anche nella seconda ora del programma. Allora, i motivi li ho detti, se tu ne hai degli altri aggiungili pure, se no andiamo coi titoli. Allora, ma no, in linea di massimo sono stati, questa mattina già le borse erano partite in territorio negativo sempre sulla scia di Wall Street per i dati delle deludenti di ieri e di Tokyo, e poi i mercati hanno ampliato le perdite dopo l'apertura degli indici americani di oggi e dei dati che hai citato tu prima. Ok, allora i peggiori, Ansaldo tiene, ci sono state un insieme di commesse per Ansaldo STS, più 0,15, è l'unico titolo positivo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Pirelli meno 3,60, la peggiore. Unipol meno 3%, Tenaris meno 2,60. Pirelli e anche Prismian ha sofferto, cioè Pirelli soprattutto. Sì, allora Pirelli appunto è stata la peggiore del paniere principale, secondo gli operatori è stata colpita dai realizzi dopo il rally realizzato nel mese di giugno. Infatti dai minimi di periodo toccati il 25 maggio scorso a ieri le azioni hanno guadagnato oltre il 25%. Allora oggi inoltre Pirelli ha comunicato che è stata scelta come fornitore unico di pneumatici della Formula 1 per 3 anni a partire dal 2011. Nel comunicato si legge che il nuovo scenario economico ha comunque imposto un approccio realistico e collaborativo, prevedendo quindi una condivisione dei costi industriali e logistici. In realtà questa è una rassicurazione per il mercato, che probabilmente prevedeva costi aggiuntivi solamente per il gruppo Pirelli, quindi potrebbe essere una notizia positiva. Per quanto riguarda Prismian ha limitato poi le perdite, ha perso il 2,02%, secondo gli operatori bene o male valgono le stesse considerazioni fatte per Pirelli. Di Pirelli, sì, nel senso che il titolo ha toccato i minimi 2010 il 20 maggio e a ieri le azioni sono salite del 18,4%. Allora, giustamente volete sapere di Fiat, meno 2% nel giorno in cui no, abbiamo parlato tutto l'ora, hanno superato di gran lunga ogni previsione i no a Pomigliano d'Arco, Intesa dopo invece il rinvio ulteriore per la quotazione di Fiderum, dopo il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, tra poco torneremo anche sulla vicenda di Pomigliano. Vorrei concludere però l'approfondimento di borsa con Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore. Borsa che ha perso l'1,21% oggi a Milano, peggio Parigi meno 1,70, Francoforte meno 1 invece e Londra meno 1,30. Allora, di Pirelli altri titoli abbiamo detto, vorrei Telecom, perché domani c'è una data importante, è un appuntamento importante per Telecom, e Monte dei Paschi, perché oggi c'è una notizia che riguarda più o meno direttamente Monte dei Paschi. Telecom. Sì, allora Telecom è stata positiva per quasi tutta la seduta, poi ha chiuso a meno 0,16%, quindi ha fatto comunque meglio dell'indice. Allora domani si riunirà il CDA per fare il punto, tra le altre cose, sulla situazione della società in Brasile e in Argentina. Per quanto riguarda la vendita della quota detenuta da Telecom in Sofora, che è l'azionista di Telecom Argentina, secondo indiscrezioni sarebbero rimasti 3 i possibili candidati e le offerte si aggirerebbero intorno a 700-800 milioni di dollari. Cioè più delle precedenti stime circolate sul mercato, ma in realtà meno del target previsto, anche se mai ufficializzato. Inoltre domani vi sarà anche un incontro tra gli operatori del settore e il viceministro delle comunicazioni Paolo Romani. Per quanto riguarda invece MPS, stamattina i bancari avevano tenuto, il titolo andava bene, poi però chiuso a meno 0,36% sulla scia dei ribassi del mercato, e il titolo questa mattina aveva tenuto grazie alle rassicurazioni sulla patrimonializzazione del gruppo da parte del direttore generale, sì, Antonio Vigni. Appunto Vigni in un'intervista ha escluso il ricorso a aumenti di capitale per riborsare i Tremonti Bond emessi dall'istituto lo scorso anno. Ecco, sulle banche va detto che oggi il comitato esecutivo dell'ABI, ossia l'Associazione Banche Italiane, ha approvato all'unanimità, anzi per acclamazione, la candidatura del numero uno del Monte dei Paschi, ossia Giuseppe Musseri, al posto di Corrado Faissola come neo presidente dell'ABI. Vedremo poi l'ufficializzazione il 15 luglio prossimo. Più mutui alle famiglie, nel rapporto di ABI di oggi si legge che sono aumentati i mutui alle famiglie, calano invece i prestiti alle imprese, sono scesi del 2,7%, gli impieghi e i prestiti alle famiglie sono aumentati del 7,5%, e poi le sofferenze nelle banche sono cresciute del 40% a quasi 65 miliardi di euro. Grazie a Livia Zancaner. E adesso vorrei brevemente, prima di tornare alla vicenda Fiat e Pomigliano, ascoltare quello che ha dichiarato invece il presidente del Comune Italiani, mi riferisco a Sergio Chiamparino, dopo l'incontro col ministro Tremonti ha detto infatti che Amparino, i comuni, le regioni, le province lamentano l'impatto della manovra su di loro, 15 miliardi complessivamente in due anni, ha detto che Tremonti è disponibile a rivedere il patto di stabilità interno. C'è una disponibilità a discutere del patto di stabilità, che a rivedere le modalità del patto di stabilità. Anche lì ovviamente non siamo in grado di dire, di dare per scontato l'esito, però la disponibilità c'è e insomma alcuni primi approcci tecnici mi fanno pensare che qualche spazio questa volta ci possa essere. E allora, visto che adesso torneremo a parlare del referendum di Pomigliano d'Arco, vale la pena ricordare come oggi l'Istat ha diffuso l'indagine posti vacanti nelle imprese. L'offerta di posti di lavoro nelle imprese con almeno 10 dipendenti, stranamente, ma insomma, è aumentata nei primi tre mesi di quest'anno dello 0,7%, o meglio, i posti vacanti nelle imprese sono cresciuti dello 0,7%. Altro non sono che posti di lavoro nuovi, liberi o in procinto di diventarlo, per i quali il datore di lavoro cerca un candidato al di fuori dell'impresa. E, insomma, i posti vacanti nei servizi sono aumentati di più che nell'industria, più 0,8%. Il significato, l'analisi di questo dato, visto che si parla sempre di crisi occupazionale, da parte del presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, al microfono della nostra Chiara Grandis. Sono indicatori mai pubblicati prima in Italia, sono indicatori che la Banca Centrale Europea ha chiesto a tutti i paesi europei, segnalano un leggero aumento rispetto all'anno precedente, ma la cosa interessante è che questa segnalazione di aumento si concentra in alcuni settori che potrebbero essere più reattivi alla congiuntura. Noi abbiamo osservato aumenti della produzione industriale, ad esempio del manifatturiero, e quindi coerentemente il numero di posti vacanti cresce nell'industria. Abbiamo un segnale interessante sui posti vacanti delle costruzioni, che invece fino adesso avevano ritardato la ripresa ciclica. Tipicamente questo indicatore di posti vacanti è un indicatore anticipatore dell'occupazione, e quindi questi timidi segnali possono essere interpretati come un possibile aumento dell'occupazione nei prossimi mesi. Che significato ha questo dato quando negli ultimi anni, particolarmente nel 2009, le ore lavorate invece sono diminuite? Nelle fasi di intensa crisi come quelle che abbiamo visto negli ultimi due anni, le imprese prima riducono gli orari pro capite e poi usano la cassa integrazione e poi licenziano i lavoratori. Questa è la sequenza tipica. Osservare, come abbiamo osservato nella seconda parte del 2009, una ripresa delle ore lavorate può essere anche in questo caso un segnale anticipatore di un'inversione di tendenza. La produzione sta salendo, ma siamo sempre a livelli molto bassi rispetto a quelli del picco antecrisi, e quindi la strada è ancora lunga. Così il presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Appunto, a sorpresa sono aumentati i posti vacanti sia nell'industria che nei servizi, uno 0,7% in più rispetto all'anno prima, e lo ha spiegato bene, a mio avviso, Giovannini, il perché di questo fenomeno. E allora, dall'aumento dei posti vacanti ai posti che, io mi auguro di no, ma rischiano di saltare, o perlomeno si riapre la trattativa Pomigliano d'Arco, abbiamo dedicato tutta la prima mezz'ora alla cronaca vera e propria, e adesso vorremmo passare anche all'analisi. Ecco perché saluto, per averci raggiunto in collegamento, Domenico De Masi, che è sociologo oltre che preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma. Professor De Masi, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Ed è anche campano, e vediamo, sì, che questo fino a prova contraria, organizzatore del Festival di Ravello e quant'altro. Abbiamo un minuto di informazioni sul traffico, poi l'analisi, non a caso abbiamo voluto un sociologo, è molto semplice. Dai voto di Pomigliano d'Arco emerge A, che i no sono stati di gran lunga superiori a ogni attesa, il 36%, B, che se si va a vedere la componente di metalmeccanici in questi no sono oltre il 40%, C, che è la cosa che più ci ha sorpreso, è che i no sono stati superiori anche agli aderenti della FIOM, ci si attendeva un 15-18%, un 10-12% in più. E sono arrivati questi no soprattutto dai giovanissimi assunti, e quindi lì abbiamo detto: ma come? potevamo immaginare una mentalità appunto altamente sindacalizzata in chi aveva 50 anni, 55 anni, che ha un passato, un vissuto di lotte sindacali, anche una mentalità un po' retro, ma i giovani, quelli che devono costruirsi un futuro in un accordo che ha molte limitazioni sugli orari, turni, pausa pranzo e quant'altro, ma garantirebbe anche 2.400 euro in più netti all'anno di straordinari, questo non ce lo saremmo mai immaginati. La risposta dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, allora, professor De Masi, due le interpretazioni che ci arrivano dagli ascoltatori al 349-238-6666, la domanda che le ho posto. A, le brutalizzo un po', sono bamboccioni, fannulloni, non vogliono rinunciare alla movida del sabato sera, visto che questa saltava con l'accordo proposto dalla Fiat, e poi c'è chi ha anche venature così un po' più, tra virgolette, razziste, sono anche campani, napoletani, non hanno voglia di lavorare, sono viziati. Altra risposta, no, attenzione, a forza di andare avanti con la flessibilità nei contratti, le modifiche contrattuali, qui si è creata una generazione di giovani che, contrariamente a ogni attesa, contrariamente a ogni visione sulla globalizzazione, la flessibilità e quant'altro, vuole il posto fisso e non ne vuole sapere di rinunciare ai diritti. Ma io ne azzardo una terza. È chiaro che un giovane che è disposto a fare giornate lavorative senza pranzo, con fasi di lavoro di una cinquantina di secondi da ripetere migliaia di volte al giorno, e poi pensi alla movida del sabato sera, è piuttosto improbabile, almeno così io penso. Credo piuttosto un'altra cosa. I giovani sono più colti degli altri, hanno studiato di più, hanno girato di più, hanno una visione più internazionale del lavoro, della vita, del tempo libero, e quindi sono molto più attenti ai diritti complessivi che non i genitori o addirittura i nonni. Sono generazioni diverse, quella attuale chiamo la generazione dei digitali, sono persone meno propense a discutere troppo tra la differenza tra giorno e notte, tra giorno festivo e giorno feriale, che hanno meno paura degli immigrati, meno paura delle biotecnologie, credono nell'informatica, sono più propensi a tutto questo, però sono anche convinti che se non si mette un paletto alla perdita dei diritti, si finisce poi per essere stritolati da una globalizzazione di cui conoscono molto meglio che degli altri la consistenza e le conseguenze. Cioè, mi faccia capire una cosa, lei sta dicendo da un lato sono giovani più moderni, ma dall'altro hanno capito che qui si rischiava, hanno capito più dei padri più sindacalizzati di loro e più con memoria storica delle lotte sindacali quant'altro, hanno detto questi sono i giovani tendenzialmente assunti verso il 2005, lo dico perché Mariano Maugeri l'ha raccontato molto bene, non sono i figli degli operai dell'Alfa che entrarono con l'infornata degli anni 80, sono ancora più giovani. Hanno detto qua bisogna mettere un paletto. Domanda, professor De Masi, ma questi giovani si rendono conto che se i padri magari sono verso la fine della vita lavorativa, loro rischiano di non trovare un posto di lavoro? Cioè la digitalizzazione se la vanno a fare a casa, a chattare su internet? Perché qui in ballo c'era un accordo complessivo. Certo, ma noi abbiamo fatto di tutto negli ultimi 10-15 anni per educare i giovani a non tener conto del posto di lavoro. Esatto. Guai se i giovani tenessero conto così fortemente del posto di lavoro. Ce ne sono 2 milioni che non hanno né posto di lavoro né studio in questo momento in Italia. Non sia mai quei giovani fossero stati educati a pensare o lavoro o niente. A quest'ora sarebbero terroristi. Meno male che hanno una visione molto più flessibile del lavoro e che sono molto più convinti che il lavoro è importante ma non è tutto nella vita. Non si tratta di napoletani, si tratta di persone che hanno anzi una mancanza di napoletanità, hanno una visione molto più moderna del lavoro e hanno molto meno paura del non lavoro perché sono stati abituati da noi adulti ad avere meno paura del non lavoro. Ogni mio studente, ricco o povero che sia, privilegiato o meno, sa che ha dopo la laurea 2 o 3 anni senza lavoro. Quindi li abbiamo abituati noi al pensiero del non lavoro che spaventa noi adulti e spaventa molto di meno i giovani. Sì, mi viene la battuta facile, professore Masi, farebbero meglio spaventarsi un po' di più, perché insomma qui non è che se ne veda tanto di lavoro in giro. Ho capito il suo ragionamento, dice siamo noi che gli abbiamo detto per anni attenti, tanto il posto fisso non ce l'avrai così, e questi non sono disposti a fare qualunque sacrificio pur di mantenere il lavoro. Posso darle un esempio poco sociologico? Non è a me ricordo un po' il marito cornuto che si taglia la cosa più cara che ha, cioè nel senso, tanto se la moglie non è fedele, allora a questo punto posso privarmi degli attributi. Non si corre questo rischio, se mi passa il francesismo? No. Dunque, noi abbiamo sono anch'io d'accordo su quello che ha detto Tremonti, cioè che si tratta di un momento storico, però esistono momenti storici come Austerlitz, esistono momenti storici come Waterloo. Questi sono momenti storici un po' Waterloo per i paesi ricchi dell'Occidente. Cioè, per la prima volta i paesi ricchi dell'Occidente stanno prendendo atto che con la globalizzazione non basta tirare su i paesi poveri, bisogna anche tirare un po' giù i paesi ricchi. E questo che oggi riguarda i metalmeccanici di Pomigliano d'Arco, fra poco riguarderà i bancari e poi anche i giornalisti e poi anche i professori di università. Ci eravamo abituati tutti a ritmi di lavoro tipici di paesi ricchi, non so se è chiaro. E i giovani presentano tutto questo, tutto sì. Qui. Sì. Sanno che non si può scaricare su alcuni il lavoro e su altri il riposo, non so come dire. Sono più contrari all'inuguaglianza che alla disoccupazione. No, no, ho capito il suo ragionamento. Vedo che comunque molti ascoltatori ritengono che invece che la soluzione sia più semplice, ossia sono bamboccioni, sono più viziati e non hanno capito che in gioco c'era il futuro della fabbrica. E di quant'altro, e sono anche diciamo, meno responsabilizzati da un punto di vista sindacale. Per carità, io non ho una mia spiegazione. Abbiamo ascoltato quella di Mariano Maugeri, quella di Domenico De Masi, abbiamo letto le vostre. Il dato di fatto resta, è totale ed è una notizia. Non solo il largo numero di no, ma che questi no siano arrivati per quote importantissime anche dai giovani, da cui obiettivamente una prima lettura poteva far pensare che sarebbero stati i primi a votare sì, perché tanto più flessibili e quant'altro. C'è da ripensare, e non si esaurisce con questa puntata di ripensamento, a tutti i messaggi che sono arrivati alla componente giovanile sul mondo del lavoro, come è stata metabolizzata anche questa flessibilizzazione spinta di questi anni. Grazie per una chiave di lettura sicuramente diversa, terza, lo dico anche a chi scrive che non è d'accordo con lei. Grazie a Domenico De Masi, che è preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma. Vabbè. Molti di voi non sono d'accordo adesso, però non possiamo continuare. Torneremo a parlare domani, parleremo anche voi che si parli dell'Expo. Un problema per volta, domani, da quello che si è capito, si dimette il commissario straordinario all'Expo Lucio Stanca, capiremo anche perché di questa altra caporetto milanese che seguiamo da mesi. Per favore, un problema per volta. Per ora grazie a tutti, un augurio di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.